Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Francesca Filiasi. Oggi Destini incrociati spicca il volo e vuole volare verso uno dei più incredibili successi musicali italiani. Un successo che non solo ha segnato la vita dei nostri protagonisti, liberi finalmente da un destino immobile e da un passato di fatiche, ma che soprattutto è riuscito a interpretare il sentimento di un'Italia ancora giovane, che dalla povertà e dall'arretratezza ha spiccato il volo verso un futuro più roseo, o forse un futuro più blu. È il 1958, è il Festival di Sanremo. Sul palco, il compassato direttore d'orchestra in frac, il maestro Alberto Semprini, accompagna al piano un cantante in smoking a doppio petto bianco. L'uomo ha 30 anni appena compiuti. A dire la verità, ne dimostra qualcuno in più. Le pieghe del suo volto sono già incise come da una vita già pienamente vissuta. Ma non vogliamo ancora anticipare la sua storia. Adesso è meglio restare ben concentrati sull'attimo che ora sta vivendo. La platea si sta accomodando meglio sulle poltrone di velluto rosso della grande sala. L'orchestra inizia a suonare. Gli archi sono punteggiati dal suono dei campanellini. Una pausa impercettibile e l'uomo in giacca bianca inizia a cantare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Il pubblico inizia a sognare. La presenza scenica dell'artista è incontestabile. Sebbene i primi versi del testo prevedano di essere quasi solo sussurrati, le mani e le espressioni del viso dell'interprete sottolineano con la forza di mille acuti le note che sta cantando. Anzi, più che cantare, sembra che stia recitando. Nel cielo infinito. L'uomo infatti non è solo l'interprete di una delle tante canzoni previste per la serata del festival, anche se a sua insaputa egli trasmette nella melodia il sentimento comune degli italiani che si sentono sulla soglia di una nuova epoca, di una nuova vita, che sembra tingersi del colore evocato dalla canzone, il blu, che da questo momento diventa il nuovo colore della speranza. L'uomo sul palco, come ormai saprete, si chiama Domenico Modugno. E la canzone è Nel blu dipinto di blu, la canzone italiana più famosa nel mondo, la più venduta, la più interpretata. Una canzone che cominciava come un sogno ed evocava astratti voli verso il cielo non si era davvero mai sentita. Ma sicuramente una parte del miracolo fu dovuta all'esibizione di Modugno. Un'immagine ancora saldamente impressa nell'immaginario canoro televisivo degli italiani. A braccia spalancate, il viso sognante e aperto, Modugno la interpretò come se lui stesso, in quel momento, stesse liberando un vulcano contenuto a fatica. Trasformò quell'immagine di volo in un grido liberatorio, al quale come d'incanto si associò il paese intero. L'Italia poteva finalmente decollare. La descrizione che abbiamo appena sentito è del critico musicale Gino Castaldo, che fotografa in pieno il senso principale del successo di Nel blu dipinto di blu, meglio nota come Volare. L'Italia sta cambiando e non c'è nessuno che può meglio interpretarne il futuro di Modugno, beniamino della musica nostrana, un uomo che incarna tutto quello che nel bene e nel male è considerato patrimonio dell'italiano migliore. Creatività, capacità di ribaltare gli eventi, leggerezza, buon cuore, spavalderia. Capace di convincere anche un grande intellettuale come Massimo Mila, che ne scrive in un suo articolo uscito sull'Espresso del 1956. Il segreto del successo di Modugno sta semplicemente in questo, che nel modo di porsi di fronte allo spettacolo del mondo, nel taglio letterario come nella formulazione musicale e prima di tutto nel timbro della voce, si avverte la presenza di quel fatto diventato così spaventosamente raro, specialmente ma non solo nel mondo della canzonetta, un uomo. Modugno guarda dietro le quinte, scambia uno sguardo con un altro ragazzo, sta incassando con gli interminabili applausi di Sanremo un successo che sa di dover dividere con lui. Insieme hanno costruito un'emozione unica e lo sanno entrambi. In un attimo la vita di Domenico ritorna come un film nella mente del cantante da quando è solo un bambino a San Pietro Vernotico. Dunque, c'era una fiata, Lumiminu Modugno. Lo figlio da Luca Piguardia, caluzzinia né arte e né parte. L'unica cosa che sapia fare era quella che sapia suonare la fisarmonica. un paese immortalato dal film autobiografico di Modugno, San Pietro Vernotico. Qui vi trascorre infanzia e giovinezza, nei paesaggi della piana messapica, la vasta pianura che da Brindisi arriva fino a Lecce. È una terra rossa, grassa, ricca di falde acquifere sotterranee che nutrono giganteschi ulivi secolari. I loro rami contorti da centinaia di anni si oppongono alle brezze che arrivano dal mare, distante solo pochi chilometri. Quella fra il rosso della terra e il verde argentato delle chiome degli alberi brilla il bianco accecante dei trulli o si staglia la pietra imponente delle antiche masserie fortificate. Su questo paesaggio il cielo è quasi sempre di un blu brillante, assoluto, nitido come una lama. Io sono legato a tutto ciò che è sud, innanzitutto. Infatti. Senza essere un separatista, sia ben chiaro. Però la Puglia in particolare è la mia vita, perché sono nato lì, vissuto lì e il mio cuore sta lì. E devo dire che l'80% dell'ispirazione artistica, se si può dire così, di tutto quello che ho fatto, nasce in Puglia. La Puglia di Modugno è una terra ricca, eppure i suoi figli non lo sono altrettanto. Protagonisti di una delle maggiori immigrazioni del paese, negli anni 50 e 60, più di 1 milione di pugliesi si riversano nelle grandi città del nord come Milano e Torino, in cerca di un riscatto che li veda finalmente protagonisti del loro destino. Gente come Rocco e i suoi fratelli, i poveri eroi del famoso film di Luchino Visconti, una famiglia lucana vicinissima alla Puglia di Modugno, che come mille altre cerca fortuna a Milano. Verrà un giorno, ma certo è ancora lontano, che tornerò al paese. E se non sarà possibile per me, forse qualcun'altro di noi potrà tornare nella nostra terra. Forse tu, Luca. Ecco te che io ci voglio tornare. Ricordati, Luca, che il paese nostro è il paese dell'oliva, del male della luna, il paese degli arcobaleni. Anche Domenico è fra coloro che scelgono di andare al nord, di cercare la fortuna, di lasciare un paese con una natura meravigliosa, ma le cui durezze, la cui mancanza di prospettive è ben nota ai suoi figli. Quando Mimì decide di partire non lo fa tanto per bisogno. La sua è una famiglia a cui non manca il pane. Il padre Cosimo è comandante del corpo delle guardie municipali. La mamma Pasqua si occupa con cura dei suoi 3 figli maschi, perché oltre a Domenico ci sono anche Vito Antonio e Giannino. No, quello che spinge Domenico è lo spirito di avventura, il desiderio di libertà. Per Mimì la piazza principale con la chiesa bianca di San Pietro e i bar davanti ai quali bighellonare sono orizzonti troppo ristretti per contenere la sua voglia di conoscere, di misurarsi. Però Lumimino era sempre scontento e dalli oggi e dalli domani alla fine si confidava con 2 amici suoi intimi e mi disse: Mendevau a Roma a far l'artista. A San Pietro c'è poco da fare, ma fin da piccolo Modugno si ingegna per trovare qualcosa, per esprimere tutta la vitalità che sente scorrergli dentro. Impara da subito a suonare la fisarmonica e trascorre tutto il giorno a suonarla per le strade del paese. La sera poi suona serenate a pagamento per conto degli amici. Nelle tiepide serate pugliesi, quando infine nei vicoli tutto si azzittisce, nei paesi, era normale sentire d'improvviso accendersi una lenta melodia e il canto di un uomo che esprime l'amore per la sua bella. Le parole sono perle di poesia locale, momenti permeati di un sentimentalismo che oggi può anche far sorridere, ma che ai tempi del giovane Modugno esprimeva sentimenti delicati, ingenui, sinceri. A mangiare il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Modugno diventa in breve un esperto del genere, il più richiesto. Le sue capacità drammatiche, oltre che canore, riescono a conquistare le ragazze più riottose, a convincere le più timide. Ma non possono essere le serenate a placarlo. Domenico ha dentro di sé una pulsione che lo spinge verso il futuro, verso la sperimentazione. La sua non è una febbre che si può spegnere fra i vicoli di San Pietro. È la strada maestra che lo interessa. Una via ampia proiettata verso un destino pieno di promesse e di incontri che permetteranno al sogno di diventare realtà. A 19 anni Domenico Modugno non ce la fa più. Scappa di casa. Siamo nell'immediato dopoguerra e Domenico sceglie di andare a Torino in cerca di fortuna, ma soprattutto di fuggire un destino che sembra già scritto, con i genitori che lo vogliono ragioniere e accasato con una brava ragazza. Fa il cameriere, il gommista, dorme in una baracca, non ha mai una lira in tasca. A Torino il cielo azzurro della Puglia si dissolve nel fumo delle ciminiere, nel grigiore dei palazzoni, e fa tanto freddo. Un freddo che Domenico non dimenticherà mai più. Eppure Mimì è giovane, forte, allegro, resistente. E la parentesi torinese, invece di raffreddarlo, lo entusiasma. Quando dopo 2 anni torna a San Pietro, fa giusto in tempo a farsi crescere i baffi e riparte verso l'avventura. Questa volta verso Roma. La Roma dei primi anni 50 è in grande fermento. La guerra si è conclusa da pochi anni e la gente ha solo voglia di voltare pagina. Il cinema la fa da padrone. Dopo l'impegno dimostrato dagli anni del neorealismo, inizia ad affacciarsi un nuovo genere, la commedia all'italiana. Mastroianni, Sordi, Gassman sono gli incontestabili protagonisti di questa stagione, ma Roma è piena anche di produzioni americane che sfruttano i meravigliosi studi di Cinecittà. Quo Vadis, Ben-Hur, Cleopatra. Gli americani scoprono film di ambientazione romana e ovviamente la scelta naturale ricade su Cinecittà. I peplum, come vengono chiamati i film di ambientazione greco-romana o mitologica, sono film facili, a volte quasi ingenui, ma di grandissimo successo. Tanto da indurre anche le mega produzioni statunitensi a cimentarsi nel genere. Quando le pellicole erano agli esordi, le maestranze cinematografiche romane li ribattezzarono i Sandaloni. Ma nonostante la facile ironia, in breve tempo i colossal americani con storie a sfondo mitologico contribuirono a cambiare la fisionomia dell'industria cinematografica italiana, introducendo budget e un impegno produttivo difficilmente visto prima nel bel paese. Una fisionomia che in breve contribuisce a mutare anche le usanze della città. Ma c'è un film americano girato in Italia in quell'epoca che si discosta totalmente dal genere peplum per mostrare una Roma ancora ingenua, vitale, popolana, anche se sempre un po' da cartolina. È Vacanze romane, il delizioso film di esordio di Audrey Hepburn nelle vesti della principessa Anna e per il quale conquista l'Oscar. Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra altezza? Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, sin tanto che vivrò. Con l'arrivo dello star system hollywoodiano a Cinecittà, Roma subisce una rivoluzione profonda. Sono finiti i tempi della sperimentazione, è finita l'epoca dell'understatement, di un'Italia ancora provinciale e tutto sommato lontana dal divismo. Inizia il momento d'oro dei paparazzi, delle dive, dei caffè in via Veneto e della lunga fila di giovani in cerca di fortuna nella capitale del cinema. Fra questi c'è anche Domenico Modugno, con i suoi baffetti spavaldi. Vuole fare l'attore e sarà questa volontà a portarlo verso l'incontro professionale che ne segnerà il futuro artistico. Al Centro Sperimentale di Cinematografia tutti, studenti e professori, sono animati da un entusiasmo che è l'entusiasmo del dopoguerra. Domenico, con la sua irruente volontà, riesce persino a vincere una borsa di studio che in parte lo libera dalla faticosa corvée dei 1000 lavoretti cercati per sbarcare il lunario. Da subito pare a suo agio sul palcoscenico, con un'assenza di timidezza e impacci forse dovuta alla lunga stagione da cantante di serenate in Puglia. Se dal suo paese è partito con il soprannome di Ufimminaru, lo sciupa femmine, a Roma sembra invece mettere subito la testa a posto quando, poco dopo il suo arrivo, compie la sua conquista più importante. Una ragazza di cui si innamora al primo sguardo e che diventa la compagna di una vita. Franca. May just be passing fancies and in time may go. But oh. Our love is here to stay. Franca Gandolfi è siciliana, figlia di una famiglia benestante, allegra e soprattutto sa dare un senso al moto perpetuo di Mimì. Modugno la incontra al Centro Sperimentale e dopo poco si fidanzano. Si sposano nel 1955 e la loro sarà un'unione forte, resistente a tutti gli urti. Intanto i tentativi di Domenico di sfondare nel mondo del cinema proseguono. Mentre ancora allievo al centro sperimentale, Domenico recita una piccola parte, quella dell'avvocato, nel film Filumena Marturano con Edoardo e Titina De Filippo. È il 1951, Domenico ha 23 anni. Ma la femmina sei stata e tale sei rimasta. E c'è bisogno di dirlo così come lo dici tu? Ma che è una novità? Non lo sanno tutti quanti chi sono stata io e dove mai trovata. Però dove stavo io ci venivi tu. Tu assieme agli altri. E come gli altri ti ho trattato. Perché ti dovevo trattare di un'altra maniera a te? Non sono tutti uguali gli uomini. Quello che ho fatto me lo piango io e la mia coscienza. Ma adesso sono tua moglie. Capiscimi bene. Tua moglie. Ma quale moglie? A chi ti sei sposato? A te. Modugno continua a recitare e l'anno dopo interpreta il soldato siciliano in Carica eroica di Francesco De Robertis, in cui canta una ninna nanna a una bambina nel dialetto di San Pietro Vernotico. È da questo episodio che nasce la leggenda del Domenico Modugno siciliano. Tutti quanti hanno detto che era siciliano, io dicevo no, guarda, è pugliese, ma no, è siciliano, è pugliese, alla fine vabbè, è siciliano. E quindi c'è l'equivoco adesso se io sono siciliano o sono pugliese, non lo so più neanche io. La verità è che i dialetti tipici della zona salentina sono molto più simili al siciliano che al pugliese, alla Lino Banfi, che ormai tutti conosciamo. Madonna benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiaggio sotto tutti i punti di vista. Torace, altezza. Vieni l'anno prossimo, ritorna dentro il loculo. La lingua del paese di Domenico Modugno ha invece la stessa dolcezza della lingua sicula. Da qui la convinzione per il pubblico che Modugno sia siciliano. Credenza che per un certo periodo, sotto pressione della casa discografica, Modugno cavalcherà. Ma la fedeltà alla sua terra è uno dei punti di forza del cantante. Per tutta la sua vita Domenico scrive canzoni dialettali e spesso si esibisce nei locali cantando proprio vecchie canzoni della tradizione salentina, o più tardi scrivendone di nuove in dialetto anche siciliano, come la bellissima Upisci Spada. C'era e c'è ancora in Sicilia la leggenda che quando prendono il pesce spada femmina, il maschio si va a suicidare dietro, va a morire. Dicono però che quando prendono il maschio la femmina invece se ne va, forse per la continuazione della razza. E quindi da un articolo di un giornale io ho tratto ispirazione per questa canzone del pesce spada. Ma torniamo a scuola. Benché importante non è l'incontro con Franca, la donna della sua vita che cambierà il destino artistico di Domenico, c'è un altro giovane, guarda caso il suo nome è Franco, che diventa subito suo amico. Anche lui è studente e con lui Domenico divide le giornate fra provini e ogni genere di lavoretti per raggranellare qualche soldo. Con Domenico, Franco condivide tanta voglia di fare e la determinazione nel trovare un suo posto a Roma, dove arriva nel 52 grazie a un premio vinto a un concorso cinematografico. La promessa è quella di una particina in un film di Nino Taranto. Ma Franco non fa in tempo a giungere nella capitale da Firenze, dove vive con la famiglia, per apprendere che la produzione si è chiusa prima ancora di girare un solo ciak. Franco non demorde e prova a cercare nuove parti nel cinema. Domenico e Franco si incontrano durante i provini di Carica eroica. E mai titolo fu più di buon auspicio per due ragazzi che di lì a poco insieme avrebbero cambiato le sorti della musica italiana e con essa, in un certo senso, anche quelli di un'intera società. La più bella sei tu, il tuo nome Lili, spettinata così, tu mi piaci. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati parliamo di un sogno. Di un sogno che due ragazzi, uno di 30 anni e uno di 28, sono riusciti a comunicare a tutti gli italiani, rendendolo un incredibile sogno collettivo chiamato boom economico. Ma andiamo con ordine. Al centro di sperimentazione di cinematografia, Domenico Modugno trova finalmente un grande amico. È un ragazzo simpatico, piccolo, maestroso e pieno di vita. A vederli insieme fanno un effetto proprio diverso. Domenico è un bel ragazzone alto, dalle spalle larghe, con un baffetto malandrino e folti ricci. Il suo amico sembra più minuto, segaligno, un'aria da dottorino che fa quasi tenerezza, le braccia sempre conserte, quasi a volersi difendere dall'irrefrenabile vitalità di Domenico. Ma i sogni, le aspirazioni, gli obiettivi, così come l'abbattimento, la delusione, la fatica e il barcamenarsi in una città che non è la propria, accomuna i due giovani in modo profondo. In breve, Domenico si sente sempre più vicino al suo amico Franco. Franco Migliacci. Franco Migliacci. Franco, a differenza di Domenico, viene dal nord. Nasce a Mantova nel 1930, ma anche lui vive il trauma del trasferimento della famiglia quando il padre maresciallo della Guardia di Finanza viene spostato in un'altra città. Ma lui va meglio che a Modugno perché va a vivere a Firenze. La Firenze dei colli, dell'arte, della bellezza. Fin da subito Franco capisce che è la bellezza in tutte le sue forme a esercitare un fascino su di lui. La famiglia lo vuole ragioniere, esattamente come la famiglia Modugno. Ma lui si sente artista, anzi forse di più. Si sente amante dell'arte. Dove la parola amante è nella sua accezione più pura, evocativa di un sentimento più che di una posizione. La musica, la letteratura, lo spettacolo sono per lui tante strade che aspettano solo di essere percorse, se questo significa poter continuare a godere delle cose belle che l'arte può offrire. In qualche modo Franco riesce a intrufolarsi in diversi spettacoli teatrali, fino a quando il caso, la fortuna, lo portano a Roma, dove spera di fare il salto di qualità. Solo che quando questo avviene, sarà in un modo completamente diverso da quello immaginato da Franco. L'amicizia con Domenico Modugno si trasforma presto in una grande opportunità per Franco. Maggiore di Migliacci di solo 2 anni, Modugno sembra a volte esserne il padre, prodigo di consigli, di esempi, di protezione. Mimì ha fiducia nelle capacità di Franco e lo spinge a esprimere se stesso. Mimmo per me è stato un maestro, un amico fondamentale che auguro a tutti di incontrare. Un amico come Modugno è prezioso. È Domenico in quel periodo che inizia a considerare la musica qualcosa di più serio che un semplice modo di trascorrere una serata con gli amici. La sua interpretazione di Un soldato nella carica degli eroici, dove canta una canzone, solleva la curiosità del direttore del canale 2 della Radio di Stato, Fulvio Palmieri, che lo chiama a una trasmissione molto seguita, Il trampolino. La partecipazione di Modugno riscuote un discreto successo, tanto da convincere Palmieri a proporgli una collaborazione. Nasce così nel 1953 Amuri Amuri, un programma in 4 puntate di chiacchiere e musica. Domenico coinvolge nel progetto la fidanzata Franca e con lei spesso canta delle canzoni come la famosa Cicoria, una canzone anche quella in dialetto. Tira tira l'acqua puzza, bagna bagna sta cucuzza, nu bagnari sta cicoria, uè, in nawe, in nawe. Iuni mami, iuni papi, iuni mangi u. Iuni mami, iuni papi, iuni mangi u. Iuni mami, iuni papi, iuni mangi u. E iuni mami, iuni papi, iuni mangi u. Acciue. Acciue. Alla radio il programma di Modugno va molto bene. E per il cantante l'esperienza è eccitante nella sua artigianalità. Domenico fa tutto. Suona, canta, intrattiene i radioascoltatori, a volte fa persino il rumorista, ma lui e Franca sono giovani, entusiasti. E questa è un'opportunità senza pari per farsi conoscere, mettersi in luce. L'operazione ha un tale successo che Modugno riesce a conquistarsi un contratto con la famosa etichetta discografica RCA. È di questi anni una delle sue prime grandi canzoni, L'uomo in frac, che all'epoca però uscì quasi inosservata. Chi è l'uomo in frac che si aggira per le strade notturne concedendosi un'ultima passeggiata prima di compiere un gesto estremo e di buttarsi giù da un ponte? Nel 1954 il bel mondo romano rimane scosso dalla notizia che il principe Raimondo Lanza di Trabia, appartenente a una delle casate siciliane più illustri, si è buttato dalla finestra di un hotel a Roma. Sposato con l'attrice Olga Villi, Lanza è uno dei personaggi di spicco della buona società del tempo, amico di Susanna Agnelli, Curzio Malaparte e presidente del Palermo Calcio. Modugno è molto colpito dall'immagine di questo gran signore che nella sua fantasia si aggira malinconico e depresso in una Roma silenziosa e notturna e scrive di getto una canzone che resta una delle sue preferite. Maggiore successo invece Modugno raccoglie al Festival della Canzone Napoletana, dove insieme ad Aurelio Fierro raccoglie grandi consensi con la canzone, sempre in dialetto, La Zarella. Ma perché io sentivo il bisogno di un linguaggio nuovo, soprattutto, forse di una lingua nuova, perché l'italiano all'epoca veniva usato, non si sa perché, come se non ci fossero vocaboli, erano sempre le stesse cose, si parlava sempre di fiori, di dolori, d'amore, di mamme, di scarpette, scarpine, scarpone, bandiere. E io dicevo, io bisogna che canti qualche altra cosa, però in italiano stranamente veniva fuori una lingua. E forse è lo stesso bisogno che sentono i giovani oggi, che è difficile cantare qualcosa di diverso, di nuovo. Allora io dico, io ho un'altra lingua, che è la lingua mia, la lingua del mio paese, delle Puglie, di San Pietro Vernotico, che rassomiglia molto al siciliano. Allora ho incominciato a fare queste canzoni con queste ispirazioni diverse. Dopo il Festival di Napoli, Domenico è sempre più preso dalla musica, ma ha bisogno di dare tenore alle sue composizioni con testi moderni e poetici. L'idea arriva come una folgorazione. Perché non ci ha pensato prima? L'amico Franco può scrivere per lui i testi delle canzoni. Franco si schernisce, Domenico gli sembra già troppo capace per avere bisogno di lui, ma Modugno non demorde e lo incalza a creare una storia da poter poi mettere in musica. Anzi, in quel momento Domenico ha proprio una melodia in mente e vuole assolutamente che Migliacci le doni le parole. È una giornata calda, soleggiata, ma nonostante il cielo sia blu, nell'animo di Franco Migliacci si agitano pensieri nerissimi. La giornata è stata un susseguirsi di cattive notizie, momenti di depressione e sconforto, seguiti da piccoli fastidi organizzativi. Non ultima, un'andata al mare con l'amico Modugno, saltata a causa del ritardo del cantante. Migliacci, di pessimo umore, si consola a casa con un fiaschetto di Chianti e i suoi problemi su cui ruminare. L'ebbrezza, unita al calore della giornata, lo fanno presto sprofondare in uno di quei sonni agitati che generano solo sogni faticosi e ingarbugliati. Al risveglio, il cervello ancora in subbuglio. La prima cosa che gli occhi mettono a fuoco nella piccola stanza dove Franco dorme sono due piccole stampe appese per rallegrare le pareti nude. Le stampe rappresentano due quadri del pittore Chagall. Nella prima c'è un cielo di un blu intenso, nella seconda un pittore con mezza faccia dipinta. A quella vista qualcosa scatta dentro Franco Migliacci, che inizia a scrivere in preda all'ispirazione. I versi vengono giù facilmente. Mi dipingevo la faccia di blu, guardare il mondo lontano laggiù e finalmente quello più semplice, volare. Ecco, è fatta. Franco Migliacci ha appena messo giù i primi versi di una canzone destinata a cambiare la vita sua e quella dell'amico Domenico Modugno. Li rilegge piano, li recita con una qualche enfasi, ne prova l'efficacia e improvvisamente capisce di essere davanti a qualcosa di veramente buono e chiama al telefono l'amico Mimì. Franco ripete al telefono le strofe una, due, tre volte. Domenico capisce subito la forza di quelle immagini rievocate dall'amico. Capisce subito di avere in mano una combinazione esplosiva, una combinazione vincente. Anche se la stesura definitiva della canzone prenderà almeno 6 mesi ai due uomini. 6 mesi trascorsi tra litigi, discussioni infinite e grandi riappacificazioni. Li aspetta la selezione di Sanremo. Non è la prima volta che Domenico Modugno va a Sanremo. Nel 1956 presenta la canzone Musetto, che anche se non gli assicura la vittoria lo mette in mostra non solo agli occhi del pubblico, ma anche a quello dei critici che imparano ad apprezzarlo. Quando dunque nel 1958 si presenta con una nuova canzone dal testo un po' folle, nessuno gli fa difficoltà. Per Modugno è una grande occasione per presentare Nel blu dipinto di blu. Nel giro di pochissimi anni, il Festival di Sanremo è riuscito a diventare il maggiore punto di riferimento canoro italiano. Chi vince a Sanremo, vince in tutta Italia. La prima edizione si svolge nel 1951, su iniziativa di Pier Bussetti, del Casinò di Sanremo, che ideò il regolamento del concorso. Da allora, ogni anno, il Festival di Sanremo è lo spettacolo più atteso dell'anno per tutti gli italiani. È quindi un Domenico Modugno molto emozionato, l'uomo in smoking bianco che si affaccia sul palcoscenico dove lo aspetta il maestro Semprini. Anche perché proprio quell'anno il festival viene trasmesso per la prima volta in Eurovisione e quindi si alza il livello della competizione. Da dietro le quinte, Franco Migliacci attende trepidamente il giudizio del pubblico e della critica alla sua prima opera, la prima canzone che abbia mai scritto. Da questa accoglienza si giocherà il suo futuro da paroliere, da artista. In quel momento a Migliacci sembra che mai come prima le difficoltà del passato, la lotta e la fatica per trovare una propria strada autonoma, originale, siano sull'orlo di trovare una soluzione, una possibilità di convertirsi in successo, in un futuro più sorridente. Quando gli archi, dopo le prime note, hanno un breve momento di silenzio, quell'artificio che in gergo si chiama hesitation, persino il pubblico sembra esitare, fino a quando la voce di Modugno li riconduce alla realtà, per poi farli ripartire verso un cielo dipinto di blu e il successo, mentre il cantante spalanca le braccia all'infinito. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati, Domenico Modugno ha appena terminato di cantare Nel blu dipinto di blu, la canzone che ha scritto insieme all'amico Franco Migliacci. Di fronte alla cascata di applausi che sembra scuotere rombante la platea del Casinò di Sanremo, dove ai tempi si teneva il festival, Domenico Modugno riesce a stento a trattenere il pianto. Dietro al palcoscenico, l'altro coautore, Franco Migliacci, non crede alle sue orecchie. Quando al termine della competizione, Nel blu dipinto di blu vince il festival, i due ragazzi, perché di questo si tratta, sono sopraffatti dalla gioia. Hanno 30 e 28 anni e la loro vita è appena cambiata, per sempre. Il successo di Volare, come subito viene ribattezzata la canzone, rompe rapidamente ogni schema discografico fino ad allora conosciuto. La canzone vende subito benissimo in Italia, ma soprattutto, sorprendentemente, diventa un hit in tutto il mondo. Negli Stati Uniti resta per ben 13 settimane al primo posto in classifica, cosa mai successa per un brano italiano, e sono milioni le copie vendute. Come scrive Enzo Biagi, Volare è ormai sulla bocca di tutti, tanto da diventare la canzone emblema d'Italia. Modugno è famoso a Tokyo come a New York. Nel Pakistan una nostra delegazione fu accolta da un'orchestrina che con Volare intendeva richiamare ai graditi ospiti la cara patria lontana. I più grandi cantanti la ripropongono nel loro repertorio a partire dal più importante, Frank Sinatra, fino a Ella Fitzgerald, Barry White, Frank Zappa, David Bowie, i Gypsy King e moltissimi altri. Ma soprattutto Volare crea un fenomeno senza precedenti. Mai come prima di allora e forse mai più, le parole del testo esprimono in modo così perfetto i sentimenti che in quel momento sembrano nascere nel cuore degli italiani. Il futuro, la speranza che la vita sia arrivata a un bivio e che l'Italia stia scegliendo la strada migliore verso il progresso. Il boom economico è arrivato e a squarciagola invita gli italiani a volare alto, a staccarsi da terra, a immaginarsi in un mondo diverso. È il mondo su cui si affacciano pieni di speranza i due giovani autori della canzone. Domenico Modugno si ritrova a 30 anni a misurarsi con un successo senza precedenti. Anche per Franco Migliacci è come se improvvisamente la notte avesse ceduto il passo a un nuovo giorno in cui si scopre uomo e con un mestiere, con una dignità, con una direzione già segnati. Da grande farà il paroliere. E grazie ai 6 mesi trascorsi a lottare su ogni singola parola con il suo amico e maestro Modugno, Migliacci sa di avere imparato a scrivere davvero delle canzoni. C'è solo da mettersi subito a lavorare perché Domenico vuole schiacciare il pedale a tavoletta. Nel giro di 2 anni nascono canzoni come Pasqualino Marajà, Libero, Selene, Olimpia. Sono 2 anni intensissimi che cementano ancora di più l'amicizia fra Migliacci e Modugno. Tanto che, quando decidono di separarsi professionalmente, la rottura non è furiosa. L'amicizia resta. Franco Migliacci sente il bisogno di misurarsi nel mondo della musica lontano da Modugno. Ma il mestiere l'ha imparato e nel giro di breve tempo diventa uno dei più apprezzati parolieri del momento, mettendo a segno grandi colpi come Tintarella di Luna per Mina, Fatti mandare dalla mamma, In ginocchio da te e C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, per un giovanissimo Gianni Morandi. E poi Come te non c'è nessuno di Rita Pavone, Una rotonda sul mare di Fred Buongusto, fino ad arrivare al suo secondo successo pazzesco, dopo quello di Volare, La bambola. Girare come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca, tu pensi solo. L'avevo scritta perché un giorno un amico mi dette, dice: vieni, ci vediamo al bar di Piazza Navona. Io vado al bar di Piazza Navona e sbaglio bar, perché c'hanno due bar importanti. Sono andato in un bar, cerco dietro, entro dentro nelle sale del bar e vedo siamo nel 67-68, vedo un mare di ragazze giovani che sta a sentire in religioso silenzio una donna, anche discreta, di bella presenza, ma agguerrita, e che diceva: ricordatevi di non bamboleggiare mai, perché chi bamboleggia, chi si fa bambola, vuol dire che in un certo senso si prostituisce, per cui attenzione, l'uomo se ne approfitterà. Io mi ha fatto, ma con una tale determinazione, con una tale, dico, le ragazze si impauriscono, e chi bamboleggia più di queste ragazze? Esco, mi porto dietro questa idea, fino a che mi capita una musica di Zambrini e Cini, se non sbaglio, che dove ci sta perfetto, tu mi fai girare come fosse una bambola. La canzone, cantata da Patti Pravo, inizialmente non era stata concepita per la cantante veneziana. Ero convinto di aver scritto una cosa che riguardasse il femminismo, un po' in anticipo sui tempi. Niente, nessuno ha recepito questa cosa. Fu fatta sentire, non voglio fare i nomi, a due cantanti importanti dell'epoca. Una disse: no, non la canterei mai una canzone del genere, perché io non sono così. Quindi vuol dire che non aveva capito, se non era così vuol dire che era una bambola. La seconda non rispose la cantante, ma rispose la madre, dicendo: mia figlia non è una bambola. E dico, la seconda che non ha capito. Allora con Zambrini diventavo pazzo. Ma anche la carriera di Domenico Modugno appare inarrestabile. Grazie a Volare inizia a girare il mondo, Stati Uniti, America del Sud. Ritorna altre due volte a Sanremo e colleziona insieme a Claudio Villa il maggior numero di vittorie al festival, 4 in tutte, un record. Anche se la sua scelta fra cantante e attore sembra fatta, Modugno continua a recitare per commedie musicali, film e pièce teatrali. Recita Brecht per la regia di Streller, la commedia musicale Cyrano, e poi sceneggiati televisivi e tanto altro ancora. Per gli italiani diventa un mito, perché memori di quel momento meraviglioso di ebbrezza che Modugno aveva saputo regalare all'inizio degli anni 60. In quel momento, due giovani destinati entrambi dai genitori a fare la carriera da ragioniere erano riusciti a regalarsi un sogno, a immaginare per se stessi un futuro migliore, come poi tanti altri italiani hanno voluto fare sulla scia dei Modugno e Migliacci. E sembra quasi voler ringraziare proprio il paese che gli ha dato tanto, quando Modugno decide nell'86 di iscriversi al Partito Radicale di Marco Pannella e con lui presentarsi alle elezioni. Siamo lì e a questo congresso c'è Mimmo. Abbiamo delle foto in cui c'è anche Enzo Tortora dietro, e con lui Mimmo in questa occasione risuona, ricanta, e non lo aveva mai fatto in pubblico, e diceva anche a casa così un po' di rado. È un grande gesto civile quello compiuto da parte di Modugno, nonostante, o forse proprio per questo, il grave ictus che lo ha colpito due anni prima, lasciandolo in uno stato di salute molto precario. Eppure Modugno non si risparmia nulla, anzi si spende soprattutto per i diritti dei malati. Con Franca, che era sempre accanto, devo dire, volevo ringraziarla ancora, perché dico, lui ricostruisce la sua integrità del fisico, dell'esprimersi, del cantare, dell'apprendere anche i momenti parlamentari nei quali era assolutamente ligio. Sono gli ultimi fuochi. Nel 1994 Domenico Modugno muore nella sua casa di Lampedusa, guardando il mare. È morto Domenico Modugno, un infarto lo ha stroncato nella sua villa di Lampedusa. Padre di generazioni di cantautori, una delle massime espressioni della canzone italiana del dopoguerra. Per Franco Migliacci è un momento di grande sconforto. Si fa una vita intera nella memoria di Modugno senza volerlo, perché ogni mattina che mi sveglio è come se Modugno ci fosse ancora. Quando scrivo una canzone ripenso a Modugno. Quando ascolto una canzone ripenso a Modugno, arrivo qua e c'è Modugno. L'avventura vissuta da Franco Migliacci e da Domenico Modugno ha il sapore di quelle commedie picaresche che a volte è capitato di recitare al grande Mimì. Gli ingredienti sono tutti qui. Gioventù, tenacia, creatività, ricerca, amore, colpi di scena. Ingredienti che a volte sono necessari per imparare a volare e a librarsi al di sopra della vita per raggiungere una meta più alta, più pura. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.